Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Cominciamo dall'economia. La produzione industriale torna a scendere dell'1,1% a maggio sia nell'Eurozona che nell'Europa 28. Sull'anno è cresciuta dello 0,5% in Eurolandia e dell'1,1% nell'Europa 28. I principali cali in Portogallo, Svezia e Danimarca, mentre i principali rialzi in Romania, Lituania e Olanda. E intanto oggi si cominciano i negoziati per l'accordo di libero scambio transatlantico, colloqui che si concluderanno dopo l'estate. L'allentamento dei vincoli americani all'export di energia sarà uno dei temi cruciali sul tavolo del sesto round di negoziati tra Stati Uniti e Unione Europea per l'accordo di libero scambio transatlantico. Colloqui commerciali iniziati oggi a Bruxelles che continueranno per tutta la settimana per poi riprendere con un nuovo round dopo l'estate. L'obiettivo generale dei negoziati è di chiudere entro l'anno prossimo e non più tardi del 2016, ovvero con l'attuale amministrazione Obama, una liberalizzazione a largo raggio di dazi e vincoli regolamentari ancora esistenti tra Unione Europea e Stati Uniti, partner che già attualmente danno vita a scambi commerciali dal valore di almeno 2 miliardi al giorno e, secondo i promotori dell'intesa, un'ulteriore liberalizzazione potrebbe attivare un ulteriore interscambio del valore di 100 miliardi l'anno, con un beneficio fino allo 0,5% del PIL comunitario. A circa un anno dal lancio dei negoziati si è però ancora lontani dall'avere testi consolidati su capitoli importanti come quello sui servizi finanziari, con gli Stati Uniti molto preoccupati della regolamentazione europea, o sul riconoscimento dei prodotti agroalimentari, dove le riserve sono invece più da parte europea. Nodo cruciale è poi l'energia, che dovrebbe avere uno spazio dedicato a parte. Sul fronte europeo, come ha rivelato il Washington Post, si insiste perché cadano le attuali restrizioni all'export di petrolio e gas da parte degli Stati Uniti e vi siano obblighi vincolanti americani a garantirne la libera vendita in Europa. Ma molto cammino resta da fare. Enrico Brivio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 16.30 torna a riunirsi il Parlamento Europeo a Strasburgo, attesa l'audizione del Presidente della BCE Mario Draghi. E intanto però c'è ancora incertezza sulle nomine europee. Osteggiata dai paesi dell'Est, la candidatura di Federica Mogherini è responsabile della politica estera della Commissione. Mancano ancora 2 giorni al prossimo vertice europeo e domina ancora l'incertezza sulle prossime designazioni comunitarie. I leader dei 28 paesi dell'Unione devono nominare un nuovo alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza. Il dibattito è acceso. L'Italia ha candidato l'attuale ministro degli esteri Federica Mogherini, ma quest'ultima è osteggiata dai paesi dell'Est perché è ritenuta troppo filorussa. I 28 devono trovare un equilibrio politico e geografico nelle prossime designazioni comunitarie e venire incontro anche alla richiesta di molti perché il genere femminile sia giustamente rappresentato. Domani il Parlamento europeo dovrebbe votare la fiducia al presidente designato della Commissione, il lussemburghese Jean-Claude Juncker. Nel vertice di mercoledì i 28 potrebbero anche selezionare il nuovo presidente del Consiglio europeo in sostituzione del belga Herman Van Rompuy. I nuovi responsabili comunitari saranno chiamati a dare una risposta alla crescente disaffezione della pubblica opinione nei confronti del progetto europeo. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Commissione europea che ha adottato oggi una raccomandazione sui servizi del gioco d'azzardo online. Charmaine Hogan, della Direzione Generale per il Mercato Interno e i Servizi della Commissione, al microfono di Marta Cagnola. Questa raccomandazione è una delle iniziative che era stata annunciata nella comunicazione. È una raccomandazione, si basa su un numero di principi e lo scopo riguarda la tutela dei consumatori, ma pure gli utenti, i giocatori dei servizi di gioco d'azzardo online, e pure per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo online. La raccomandazione si concerne pure sulle comunicazioni commerciali, sulle advertising, promozioni e sponsorship. Lo scopo è per un livello più alto di protezione dei consumatori, in generale dei cittadini, se uno può dire così, e per avere un livello più comune in tutti gli Stati membri. È tutto, l'Europa vi aspetta domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.